Questa è una domanda chiaramente che, diciamo così, anche di attualissima, cioè tra una forma in qualche modo di precariato, che c'è quella della, della disdetta di fine anno, e di solito veniva consegnata la sera della vigilia di Natale, in modo che proprio il Natale era così tranquillo, insomma una festa anche sentita nell'ambito della famiglia, e quindi di solito si presentavano la sera e ti portavano la disdetta. Poi tra queste figure molte volte c'era anche la figura intermediaria tra il padrone e il contadino, che era il fattore, di solito era il fattore nelle aziende più grandi, o il padrone che aveva più diciamo più di un terreno, era il fattore che aveva questo compito, insomma, quindi chiaramente un ricatto alla pari di quelli che si possono vivere oggi nel momento in cui si è al lavoro diciamo interinale, precario, perché sai che c'è la scadenza, speriamo che mi rinnovi, non c'è mai la possibilità in qualche modo anche di avere quella diciamo così autonomia possibile, anche di libertà probabilmente di potersi esprimere, finché si è in qualche modo ricattati dalla possibilità di avere la riconferma del lavoro. Non so se hai altre domande, Michele.